L'opposizione tutta chiede invece lo stop alle riforme fino all'elezione del suo successore, che al momento però appare in alto mare. Per gli attentati di Parigi arriva la rivendicazione di Al-Qaeda nello Yemen. Notizie di pochi istanti fa dicono che è stato identificato un quarto uomo. Charlie Hebdo intanto torna in edicola con una tiratura di 5 milioni di copie, tutte esaurite anche in Italia. Primo parere positivo. L'avvocato della Corte di Giustizia Europea dà l'ok al programma di acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea. Draghi ai tedeschi: dovete capire che la BCE ha un mandato europeo. Altro e nuovo passo nella rivoluzione televisiva. Amazon produrrà e trasmetterà online una serie ideata da Woody Allen. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che, come sempre, se volete potete commentare scrivendoci a effettogiorno@radio24.it, sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, oppure durante la diretta al 349-238-6666. In apertura, dopo il lungo speciale che abbiamo dedicato alle dimissioni del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è su queste che torniamo e lo facciamo innanzitutto raccontando come si è svolta questa mattinata, l'ultima da appunto Presidente della Repubblica, da Capo dello Stato, e lo facciamo con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, lo anticipavi da studio, notizia battuta dalle agenzie alle 10.35, pochi minuti prima la firma della lettera di dimissioni da parte di Giorgio Napolitano nello studio della vetrata, lettera affidata quindi al segretario generale del Quirinale Marra, che l'ha recapitata nell'ordine al Presidente del Senato Grasso, alla Presidente della Camera Boldrini e al Presidente del Consiglio Renzi, che ha convocato un Consiglio dei Ministri che ha preso atto formalmente del passo indietro. Saluto poi alle 12 al picchetto d'onore dei corazzieri nel cortile del Quirinale, bandiere del Presidente della Repubblica ammainate dal Torrino e dalla finestra che si affaccia sulla piazza, ed uscita in macchina di Napolitano alle 12.05. Un saluto con la mano alla folla che attendeva il presidente dimissionario, tanti ad attenderlo, tra questi numerosi bambini delle scuole. Ma cosa succederà ora a livello istituzionale? Diciamo subito che la guida del paese è affidata al presidente del Senato Grasso, che sarà presidente supplente con sede a Palazzo Giustiniani sino all'elezione del nuovo capo dello Stato. Le relative votazioni inizieranno tra 15 giorni, esattamente il 29 gennaio. Le prime tre votazioni prevedono la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, 1.008 tra deputati, senatori e delegati regionali. Dal quarto scrutinio il quorum scende alla maggioranza assoluta. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Siamo alle reazioni, soprattutto quelle dell'opposizione, oltre che ai ringraziamenti di rito da parte del Partito Democratico e della maggioranza, e naturalmente un po' di ragionamenti sul cosiddetto Toto Quirinale, per quanto se ne può sapere al momento. Elisabetta Fiorito, eccoci, buongiorno. Sì, Simone, l'opposizione chiede lo stop al disegno di legge costituzionale fino all'elezione del nuovo capo dello Stato e lo chiede nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio, la Lega, il Movimento 5 Stelle e SL. Non ci sono precedenti, dicono i gruppi d'opposizione, di riforme fatte in assenza del capo dello Stato, è inopportuno proseguire. Da parte del Movimento 5 Stelle poi dure critiche a Giorgio Napolitano, al quale i grillini chiedono di rinunciare di essere senatore a vita. Grazie Presidente, invece il tweet del Premier Matteo Renzi: il PD si riunirà venerdì per indicare il successore di Napolitano. Sentiremo tutti, dicono dal Partito Democratico. Le elezioni ci sarà al quarto o al massimo quinto scrutinio, quando, ricordiamo, si abbassa il quorum e c'è bisogno solo della maggioranza assoluta e non dei due terzi del Parlamento in seduta comune. Tra i nomi che spiccano in queste ore, molti nomi quelli del PD: Mattarella, Veltroni, Grasso e Finocchiaro. Il governatore della BCE Mario Draghi ha ancora una volta ribadito che la presidenza della Repubblica non è il suo lavoro. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, su tutto questo torneremo più avanti, parleremo con Deborah Serracchiani, vice segretario del PD, e poi con un politologo, Gianfranco Pasquino, per raccontare un po' questi 9 anni del Presidente della Repubblica. Veniamo adesso però alle vicende francesi e alle indagini dopo gli assalti di Parigi. Ci sono delle ultime notizie che parlano dell'identificazione di un complice, a quanto pare. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno, sì, questa è l'ultimissima di agenzia. Il ricercatissimo quarto uomo complice dei fratelli Kouachi e di Amédie Coulibaly negli attacchi terroristici della scorsa settimana sarebbe stato identificato grazie alle chiavi di una moto trovate nel rifugio di Coulibaly. Questo almeno quanto riferisce Le Parisien. L'uomo però potrebbe essere anche lui già fuggito in Siria, quindi identificato ma non trovato. Le notizie dalla Francia oggi sono tantissime e ovviamente la prima è quella del fatto che Charlie Hebdo è tornato in edicola, ma c'è rimasto solo poche ore perché già è stato esaurito in tutti i 27.000 punti vendita francesi, 700.000 copie quelle che erano state stampate per stamattina, altre 300.000 arriveranno nel pomeriggio. La tiratura totale arriverà, dice la società di distribuzione, a 5 milioni. In prima pagina, come sappiamo, c'è la raffigurazione del profeta Maometto con il cartello Je suis Charlie. Je suis Charlie. Questo il quadro, poi arriveremo tra un attimo anche alle edicole italiane perché è esaurito anche qua Charlie Hebdo. Siamo andati a sentire un po' in giro come sono andate le cose questa mattina. E c'è un'altra questione però che sta animando la Francia e animerà probabilmente il dibattito, Laura, ed è la vicenda di Dieudonné, un controverso comico francese. Polemista, comico, antisemita, dichiarato, è stato arrestato per apologia di terrorismo. Nei giorni scorsi cosa aveva fatto? Stravolgendo appunto questo ormai planetario slogan Je suis Charlie, aveva scritto sulla sua pagina Facebook che si sentiva come Charlie Koulibaly, cioè appunto uno dei terroristi di Parigi, quelli di cui parlavamo prima. Il post poi è stato rimosso dallo stesso Dieudonné, ma era troppo tardi, diciamo così, per non essere notato. Si è appreso, dopo questo arresto, che in Francia negli ultimi giorni sono già una cinquantina le procedure giudiziarie aperte per apologia di terrorismo, quindi sta proprio innescandosi questo meccanismo che si temeva subito dopo gli attacchi di Parigi. Grazie a Laura Bettini, un altro tema questo di Dieudonné dunque, su cui ovviamente si aprirà un dibattito. Siamo in collegamento con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che molto ci ha supportato nell'ultimo periodo nel cercare di raccontare quello che è successo. Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Per parlare di questa rivendicazione che è arrivata, una rivendicazione che arriva da Al-Qaeda nello Yemen e che viene riportata come riferita direttamente ad Al-Zawahiri, cioè sarebbe stato lui ad ordinare l'attacco. Alberto, era qualcosa che ci si poteva attendere tutto sommato? Beh, rafforza questa rivendicazione la ben nota Yemen Connection, cioè la relazione tra i fratelli Quashi, soprattutto tra Said il maggiore e lo Yemen, perché ci è stato detto, raccontato, che Said era stato nel 2011 in Yemen, lì aveva incontrato addirittura l'emiro Anwar al-Awlaki, che era stato poi ucciso da un drone americano. Qui aveva frequentato campi di addestramento, corsi ideologici di Islam salafita, ed era tornato, e secondo quanto sostenevano i fratelli Quashi, addirittura con dei finanziamenti da parte dell'emiro per costituire una cellula jihadista che portasse la guerra in Occidente. Al-Awlaki era capo di una sorta di rete internazionale appunto che aveva come obiettivo portare la jihad in Occidente. È una rivendicazione, la seconda di Al-Qaeda, dopo quella che c'era stata tra l'altro l'8 gennaio scorso da Mosul da parte dell'ISIS. Insomma, c'è una certa concorrenza a quanto pare tra le due organizzazioni per rivendicarsi questa strage. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, anche per questi chiarimenti. Si diceva copie di Charlie Hebdo esaurite anche in Italia. Siamo andati a raccogliere qualche voce in giro, sentiamo il servizio. Blitz nelle edicole e code da nord a sud Italia e non solo in Francia per acquistare il primo numero di Charlie Hebdo dopo l'attentato alla redazione che ha provocato 12 vittime. È uscito con una tiratura record di 3 milioni di copie contro le abituali 60.000, 16 pagine invece di 8, distribuito in 25 paesi, tradotto in 5 lingue tra cui l'arabo, presente anche in Turchia, non in Marocco e Algeria. Da oggi e nei prossimi giorni nel nostro paese è abbinato al Fatto Quotidiano, in pochi minuti a Milano, come raccontano gli edicolanti e la grande distribuzione. Il Fatto Quotidiano con il giornale francese è stato esaurito verso le 9, anche perché è arrivato un po' tardi, ce ne voleva il doppio o il triplo delle copie mandate. Qui alla Mondadori abbiamo esaurito tutte le copie in una decina di minuti, avevamo la coda davanti all'ingresso del negozio e aspettavano i clienti per comprare il Fatto Quotidiano e Charlie. C'è sicuramente un'onda di emotività, c'è sicuramente un segnale che si voleva dare anche di vicinanza ai nostri valori. Mentre a Roma le copie del giornale satirico francese abbinato al Fatto Quotidiano erano state prenotate anche in anticipo. 20, 8 e mezza di mattina. L'ho finito, verso le 8 e mezza, 50 copie. Parecchia gente l'ha prenotati, non so se fanno una ristampa prossimamente con il Fatto. L'editore di Charlie Hebdo ha fatto sapere che la tiratura salirà a 5.000 copie per permettere un piccolo gesto di solidarietà a tutti, oltre ai necessari grandi gesti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo alle misure di sicurezza italiane. Si ragiona naturalmente su come rafforzare i dispositivi e su come rafforzare anche le capacità di indagine. Raffaella Calandra, eccoci, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Dai luoghi di culto ai mezzi di trasporto, alla stampa, l'elenco dei possibili obiettivi sensibili italiani è lungo e diversificato, bisogna dirlo. E su indicazione del Viminale le prefetture stanno rafforzando le misure di sicurezza, perché anche se non ci sono evidenze di attentati in preparazione qui da noi, è difficile riuscire a bloccare eventuali lupi solitari, ripetono in queste ore gli investigatori. Così allora aumentano le difese mentre si va avanti sul fronte delle inchieste, nel tentativo di bloccare prima che si vengano sviluppati i progetti, diciamo, attentatori. Diverse sono quelle in corso in tutta Italia, a breve sarà chiusa quella di Venezia sul reclutamento di foreign fighters, ma sull'estremismo islamico indaga pure Milano, preoccupata in particolar modo in vista dell'Expo. E una ventina di nuovi nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati pure a Roma. Fanno parte della pattuglia dei 53 aspiranti jihadisti partiti dall'Italia per la Siria, che potrebbero essere un pericolo una volta rientrati. E nella direzione di una maggiore prevenzione va anche il progetto della creazione di una procura nazionale antiterrorismo che confluirebbe all'interno di quella antimafia. Un progetto a lungo sollecitato dagli esperti, che ha avuto un'accelerazione in queste ultime ore dopo i fatti di Parigi, perché più circolazione delle informazioni tra procure porta anche a più sicurezza, conferma il presidente dell'ANM Rodolfo Sabelli. Naturalmente in materia di antiterrorismo il coordinamento è fondamentale. Abbiamo avuto questi fenomeni di collegamento tra l'aspetto mafioso e il terrorismo. L'affidamento di questa funzione di coordinamento nazionale ad un'unica realtà centrale consentirà anche di meglio monitorare. Maggiore coordinamento vuol dire migliore intervento, quindi maggiore sicurezza. Quindi, insomma, queste sono le iniziative che si stanno cercando di prendere su più fronti, quello investigativo e quello della prevenzione, per cercare di evitare qualsiasi, diciamo, azione di qualsiasi lupo solitario, così come viene definito dagli investigatori. Simone. Grazie, grazie alla nostra Raffaella Calandra. E adesso cambiamo argomento, parliamo della discussione questa sera al Parlamento Europeo sulla vicenda dei Marò. Al centro del dibattito la richiesta di un intervento diretto dell'alto commissario Federica Mogherini, ma la notizia di questa mattina è che la Corte Suprema indiana ha concesso altri 3 mesi al fuciliere La Torre per curarsi in Italia. La Corte indiana, riconoscendo i motivi umanitari, ha prorogato il permesso in Italia per il fuciliere Massimiliano La Torre. Nelle scorse settimane La Torre era stato operato per un'anomalia cardiaca. Il militare era stato colpito la scorsa estate da una ischemia. Rientrato in Italia a settembre, era già stato sottoposto a un intervento al cuore. La decisione indiana era attesa per lunedì, poi il rinvio. Ma il titolare della Farnesina, Gentiloni, aveva già fatto sapere che, considerate le condizioni di salute, il militare non avrebbe lasciato il nostro paese. Oggi il ministro degli esteri e quello della difesa esprimono soddisfazione e aggiungono: lavoriamo a una soluzione definitiva, perché Salvatore Girone è e resta lì. Determinante oggi è stata la garanzia scritta e firmata dall'ambasciatore italiano in India Daniele Mancini, in cui si assicura il rispetto della nuova scadenza fissata per il rientro di La Torre. Sul piano delle relazioni, secondo indiscrezioni di stampa, l'Italia starebbe per cambiare rappresentante diplomatico nel paese. Ai primi di marzo dovrebbe arrivare in India Lorenzo Angeloni, oggi in Vietnam. Mancini invece dovrebbe essere il nuovo ambasciatore presso la Santa Sede, forse un riflesso dei difficili rapporti tra Roma e Nuova Delhi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torneremo a parlare di tutto questo e dell'impegno dell'Europa in Europa 24 alle 14. Veniamo adesso all'economia, con le decisioni, o meglio il parere dell'avvocato della Corte del Lussemburgo in merito al programma di acquisto di titoli della Banca Centrale Europea. Un programma conforme ai trattati, secondo la Corte. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buongiorno innanzitutto. È il via libera che Draghi aspettava, anche se era un parere non necessariamente vincolante. Sì, un passo importante perché, come sapete, la prossima settimana, giovedì, si riunisce il Consiglio della Banca Centrale Europea e deve decidere sul famoso QE, cioè l'acquisto di titoli pubblici dei paesi dell'Eurozona per cercare di fare ripartire un po' di inflazione, quantomeno frenare la deflazione e far ripartire l'economia. Se la Corte avesse detto no a quest'altro programma di acquisto di titoli pubblici, il famoso piano OMT lanciato 2 anni fa, anche se le forme sono diverse, legalmente le due cose non sono strettamente collegate, è chiaro che avrebbe messo un freno importante anche al QE della prossima settimana. In questo modo invece la BCE ha le mani più libere, anche se in Consiglio ovviamente la discussione non sarà facile, visto che c'è un'opposizione forte, soprattutto dai membri tedeschi e da qualcun altro, però credo che a questo punto sia abbastanza scontato che il QE venga lanciato giovedì prossimo. Grazie, grazie intanto a Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Tra l'altro oggi c'è un'intervista di Draghi, la citavamo nei titoli, a Die Zeit, un quotidiano tedesco, nel quale dice, tra l'altro, dovete capire, ai tedeschi dice, dovete capire che la BCE ha un mandato europeo. Per chiudere questa parte di Effetto Giorno, parliamo di un mito del cinema mondiale che si mette insieme al maggior sito di e-commerce, quantomeno del mondo occidentale, Woody Allen con Amazon. Per che cosa, lo chiediamo alla nostra Marta Cagnola. Marta. Sì, Simone, intanto Woody Allen ha dichiarato: non so come mi sono infilato in tutto questo, non ho idea da dove cominciare, e credo che questa sia la premessa più efficace. Cosa farà Woody Allen? Scriverà e dirigerà la sua prima serie, appunto, per Amazon, non un film, ma una serie di episodi di 30 minuti che non andranno in onda sulla TV tradizionale, bensì on demand, sulla libreria virtuale di Amazon. Non in Italia, succederà nel servizio di streaming Prime Instant Video in Stati Uniti, Inghilterra e Germania. Quindi per vederli in Italia dovremo aspettare, come nel caso di House of Cards o di Orange is the New Black, che li compri una TV tradizionale. C'è da dire però che questa è una vera rivoluzione, al di là del fatto che in Italia ancora non sia arrivato questo servizio. Ricordiamo qualche giorno fa i 2 Golden Globe, miglior serie e miglior attore per musical e commedia, vinti da Transparent, il lancio di Mozart in the Jungle di Roman Coppola e Jason Schwartzman e la seconda stagione di Alpha House con John Goodman. Riveliamo già che Amazon ha siglato un accordo con Ridley Scott come produttore esecutivo della serie The Man in the High Castle. Questo per quanto riguarda Amazon. Invece abbiamo citato House of Cards e Orange is the New Black, queste sono di Netflix, servizio americano. Si dice sempre che il 2015 sarà l'anno dell'arrivo di Netflix in Italia, anche qui staremo a vedere. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Alle 10.35 Giorgio Napolitano ha firmato le dimissioni da Presidente della Repubblica e poco prima di mezzogiorno ha lasciato il Quirinale dopo 9 anni da Capo dello Stato. La maggioranza lo ringrazia, i 5 Stelle chiedono che rinunci alla carica di senatore a vita, l'opposizione tutta che si fermi la discussione sulle riforme fino all'elezione del suo successore, che al momento però appare in alto mare. Per gli attentati di Parigi arriva la rivendicazione di Al-Qaeda nello Yemen ed sarebbe stato identificato un quarto uomo, un complice dei 3. Charlie Hebdo intanto torna in edicola con una tiratura di 5 milioni di copie, tutte esaurite anche in Italia. Primo parere positivo, l'avvocato della Corte di Giustizia Europea dà l'ok al programma di acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea. Draghi si rivolge ai tedeschi, dovete capire che la BCE ha un mandato europeo. Prima reazione sui mercati riguarda il mercato dei cambi, dove ci vogliono 1,17 dollari per comprare un euro, quindi appunto quotazione dell'euro in netto calo. Deborah Serracchiani, vice segretario del Partito Democratico, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno. Naturalmente vogliamo parlare con lei innanzitutto delle questioni che riguardano il Quirinale. E molti si stanno chiedendo in queste ore, ma insomma deve essere per forza un nome del Partito Democratico? Guardi, noi non siamo partiti da questo e non siamo partiti dai nomi, abbiamo detto che sicuramente il Partito Democratico sarà protagonista dell'elezione, non fosse altro che per i numeri e per la grande responsabilità che ha, essendo il maggior partito della maggioranza, il maggior partito di centrosinistra ed avendo segretario nazionale che è anche presidente del Consiglio, quindi è chiaro che auspichiamo di poter fare la nostra parte e aiutare anche un'elezione in tempi ragionevoli, evidentemente. Ragionevoli quanto? Ma So che ho letto e ho visto che vi sarebbe un tentativo di chiudere al quarto scrutinio, tra il quarto e il quinto scrutinio. Io onestamente non ne faccio una questione di tempi, quanto della scelta evidentemente della persona più giusta a parlare, rappresentare e anche interpretare in qualche modo quello che è il sentimento di tutti gli italiani, motivo per cui tra l'altro, a proposito di metodo, abbiamo detto fin dall'inizio che cercheremo la più larga condivisione possibile, quindi è chiaro che cercheremo con tutte le forze politiche di fare presto. Anche naturalmente col Movimento 5 Stelle. Ma guardi, con tutti quelli che sono disponibili a mettersi in gioco e a fare la loro parte, del resto sono pagati, no? per sedersi in Parlamento, e credo che una scelta così importante come quella del Presidente della Repubblica non possa non vedere la partecipazione anche di quella parte di popolo italiano che ha eletto il Movimento 5 Stelle, e quindi di conseguenza mi auguro che decidano di partecipare a questa importante elezione. Quindi, per essere ancora più chiari, non è necessario che sia un nome vostro, un uomo comunque legato alla storia del PD, perché si fa anche il nome di Mattarella, tanto per dire, insomma, io so che lei non scenderà sui nomi in questo momento, come è evidente, però, non è necessario che sia un uomo legato alla vostra storia, per così dire. No, ma guardi, le ripeto, non facciamo questi identikit che creano solo confusione e ci fanno andare avanti per esclusioni. No, noi abbiamo veramente la consapevolezza che abbiamo l'opportunità e l'occasione di far bene nello scegliere una persona che sia all'altezza anche del compito che gli viene affidato, e tenuto conto che veniamo da 9 anni di servizio del presidente Napolitano, tali per cui è chiaro che dobbiamo veramente mettere la persona giusta. Insomma, lui è riuscito ad interpretare al meglio in questi anni il ruolo che gli è stato affidato, ha tenuto sempre la barra dritta, ha fatto spesso è stato l'arbitro che in qualche modo ha tentato di tenere insieme le sorti di un paese che ha avuto anche momenti di grande difficoltà politica. L'opposizione in questo momento chiede lo stop alla discussione sulle riforme finché non si elegge il nuovo capo dello Stato. Le sembra un'ipotesi alla quale potete aprire, sulla quale potete concordare? Ma assolutamente no, anche perché stiamo parlando di cose assolutamente distinte che vanno tenute separate. Un conto sono le riforme che vengono fatte, svolte, insomma anche con una discussione molto ampia in Parlamento, un conto è l'elezione della più alta istituzione repubblicana. Insomma, io francamente non vorrei che tutto diventasse una questione di, non voglio usare il termine giochi di partito, ma insomma non vorrei che la politica desse un'invasione così totale su una scelta delicata come quella del Presidente della Repubblica. L'ultima domanda che le voglio fare, un po' a lato rispetto alle notizie di queste ore, riguarda la vita interna del partito. C'è stata una grossa polemica in merito al voto per le primarie in Liguria, ci sono state denunce di voti massicci di immigrati, di gente dei campi rom e via dicendo. C'è un collegio dei garanti che sta lavorando naturalmente su tutto questo, quindi ovviamente immagino che in parte sarà da attendere tutto questo. Detto ciò, è vero che non è il primo caso che ci sono denunce di questo genere, si pensi a Napoli, si pensi alla stessa capitale in questo momento commissariata. C'è un problema con questo istituto, con l'istituto delle primarie, per come è organizzato e per come funziona adesso, che va rivisto? Ma guardi, che siano da fare degli aggiustamenti, probabilmente anche chiarezza, non c'è dubbio. Noi però continuiamo a difendere questo strumento perché riteniamo che sia insomma il modo migliore per eleggere la propria classe dirigente, anche per fare quel necessario rinnovamento, cambiamento e ampliare la partecipazione di tutti, non solo degli iscritti ad un partito. Detto questo, io credo che naturalmente nell'ambito di quegli aggiustamenti chiarezza la faremo negli organismi del partito, come lei ricordava. C'è una commissione di garanti che proprio in questo momento sta esaminando i vari casi, i vari ricorsi. Auspichiamo che si faccia chiarezza in tempi brevi, anche perché insomma non credo che molto spesso magari le cose sono presentate in modo diverso da quello che realmente sono. Insomma, io credo che per esempio quando si tratta di cittadini che risiedono nel nostro paese da tantissimo tempo e che hanno ormai una, come dire, un'affiliazione anche rispetto alla vita politica del paese che li ospita, tale da voler partecipare alle primarie, non saremo certo noi a dirgli di no. Naturalmente siamo noi a dover vigilare affinché invece non vi sia una strumentalizzazione del voto da parte di chiunque. Grazie Deborah Serracchiani, vice segretario del Partito Democratico, per essere stata con noi, e saluto Fabrizio Tonello, che è docente invece di scienza politica all'Università di Padova, tra l'altro insegnato a Pittsburgh e fatto ricerca alla Columbia University, oltre che in Italia naturalmente. Il suo ultimo libro è L'età dell'ignoranza, edito Bruno Mondadori nel 2012. Tonello, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. L'abbiamo chiamata perché lei si è occupato anche tanto di comunicazione, ha scritto anche dei libri sull'argomento e ha lavorato negli Stati Uniti. Le vogliamo fare una domanda, che è questa. Oggi molti giornali europei pubblicano e mettono in edicola e portano in edicola le nuove vignette di Charlie Hebdo. Così non hanno fatto i quotidiani americani e gran parte evidentemente dei quotidiani britannici. Ci sono state molte riflessioni su questo, anche per la scorrettezza politica delle vignette di Charlie Hebdo. Vorrei capire da lei perché i giornali americani e una parte, gran parte dei giornali britannici non hanno operato una scelta di questo genere. Beh, è una questione di buon senso. Il Charlie Hebdo ha tutti i meriti del mondo, erano dei grandi giornalisti, dei grandi disegnatori, ma erano anche un foglietto ultraminoritario che ha dedicato la sua esistenza alla critica del potere, alla critica del clericalismo cattolico, molto più che non islamico. E quindi il loro ruolo, la loro collocazione nel campo della comunicazione era ed è rimasta fino a prima della strage della settimana scorsa del tutto diversa da quella dei grandi giornali. Se oggi il New York Times ripubblica le vignette contro Maometto, fa esplodere il Medio Oriente, qualsiasi cittadino americano nel mondo diventa un bersaglio. Quindi è una questione, come dire, di realpolitik prima ancora che di politicamente corretto, secondo lei? No, ma certo, ma il fatto che tutti abbiamo il diritto di fumare una sigaretta non significa che abbiamo il diritto di buttare la cicca dentro un deposito di benzina. I valori universali sono sì valori che dobbiamo difendere, ma anche il buon senso è un valore universale. Mi stupisco come ci siano dei giornalisti italiani come Gianni Rio, che non capiscono una tale banalità. Il ruolo del New York Times o della CNN non è lo stesso di Charlie Hebdo, e come dobbiamo commemorare, difendere la memoria, onorare questi giornalisti, nello stesso tempo dobbiamo chiederci cosa vogliamo fare con questa satira. Questa è una domanda che qualsiasi giornalista si deve porre. C'era una bellissima vignetta del New Yorker, del magazine di qualche tempo fa, non so nemmeno se sia stata pubblicata o se sia stata fatta per gioco, che aveva questo titolo: godetevi in modo responsabile questa vignetta culturalmente, eticamente, religiosamente, politicamente corretta, grazie. E la vignetta è una vignetta vuota nella quale sostanzialmente non c'è nulla. Non c'è un eccesso da questo lato nel mondo anglosassone in genere, Tonello? No, ma il caso Charlie Hebdo ci deve far riflettere anche sulla timidezza e su le molte limitazioni alla libertà di espressione. Ma è il New Yorker, per esempio, che quando furono quando fu eletto Barack Obama fece una caricatura con Obama e la moglie vestiti uno come un militante islamico e l'altra con un Kalashnikov a tracolla. Ma un conto è la satira contro il potere, un altro è quello delle vignette contro le minoranze. Non dimentichiamoci che i musulmani in Francia, come negli Stati Uniti o in Italia, sono una minoranza, esattamente come gli ebrei erano una minoranza nella Germania di Hitler. La satira contro le minoranze non è uno strumento di libertà e di emancipazione, è piuttosto uno strumento di esclusione, di indiretto o diretto razzismo. Grazie a Fabrizio Tonello per le sue opinioni, valutazioni e analisi, docente di scienza politica all'Università di Padova. L'ultimo libro è L'età dell'ignoranza. Noi ci fermiamo, c'è una pausa, ci sono i mercati, poi ci ritroveremo per parlare ancora una volta dei 9 anni di Napolitano. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Giorgio Napolitano ha firmato le dimissioni da Presidente della Repubblica. Poco prima di mezzogiorno ha lasciato il Quirinale dopo 9 anni da Capo dello Stato. I 5 Stelle chiedono che rinunci alla carica di senatore a vita. L'opposizione lo stop alle riforme fino al voto sul suo successore. Il PD dice di no. Per gli attentati di Parigi è stato identificato un quarto uomo, un complice, mentre arriva la rivendicazione di Al-Qaeda nello Yemen. Charlie Hebdo torna in edicola con una tiratura di 5 milioni di copie, tutte esaurite, sia in Francia naturalmente, ma anche in Italia. Un primo parere positivo dall'avvocato della Corte di Giustizia europea. L'ok al programma di acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea, che dovrebbe ricevere invece l'approvazione del direttivo della BCE il 22 di gennaio. La borsa. Arca SGR, più valore agli investimenti. Vi presenta Borse in diretta. Il FTSE MIB scende di 0,5%, il FTSE OCHER dello 0,41%, Parigi dello 0,67%, Francoforte dello 0,6%, Londra dell'1,74%, però è dal mercato dei cambi che vogliamo partire con Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, perché è l'ultima notizia che vi abbiamo dato un istante fa, quella sul programma di acquisto titoli della BCE, ha naturalmente avuto un impatto anche su questo. Eleonora. Sì, infatti l'euro è molto debole, a 1,1750 sul dollaro, ovviamente si scommette su un imminente intervento da parte della BCE su un acquisto di titoli di Stato anche dopo il pronunciamento dell'avvocato della Corte UE, e quindi questo indebolisce ovviamente la moneta unica. E per quanto riguarda le borse? Per quanto riguarda le borse, diciamo che la volatilità è la parola d'ordine. Piazza Affari poco fa era positiva, adesso perde 0,5%, ovviamente c'è grande nervosismo perché non si capisce bene quali saranno le mosse della BCE, preoccupa inoltre la situazione della Grecia, dove ricordiamo che il 25, 3 giorni dopo la riunione del Consiglio Direttivo della BCE, si terranno le elezioni. Comunque Piazza Affari era sospinta in alto dalle banche che hanno virato al rialzo, tuttavia appunto alcuni titoli, alcune blue chips sono sotto il tiro delle vendite e questo tira giù il listino. Grazie a Eleonora Micheli di Radio Cori Sole 24 Ore e ai colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore come sempre per gli aggiornamenti puntuali e buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E ritorniamo alle dimissioni di oggi del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Innanzitutto rispondo ad un ascoltatore via SMS, Aguinaldo, spero di aver detto giusto, da Fregene, che ci chiede se Napolitano prenderà il TFR, se si sa di quale importo. No, non spetta alcuna liquidazione ai capi dello Stato che escono dal loro mandato, quindi non si preoccupi, non ci sarà questa spesa. Saluto Gianfranco Pasquino, che è politologo, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna, ex senatore della sinistra indipendente dei progressisti. Professor Pasquino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Che ci dice di questi 9 anni di Giorgio Napolitano? 9 anni di una presidenza che ha avuto molti problemi politici da sbrogliare, perché né i parlamentari né i dirigenti di partito erano capaci di farlo, di un presidente che invece aveva enormi capacità e ha tenuto insieme un sistema politico che altrimenti si sarebbe disgregato almeno un paio di volte, nell'autunno del 2011 e poi nella primavera del 2013, subito dopo le elezioni, un presidente con un prestigio europeo credo incomparabile e quindi un giudizio fondamentalmente positivo. Penso che il giudizio meno positivo di sé lo darà Napolitano, perché si era posto obiettivi molto elevati, fra i quali riforme istituzionali e socio-economiche importanti che fino ad oggi non sono ancora state conseguite. Professor Pasquino, c'è chi ha criticato fortemente, e non solo dall'opposizione a dir la verità, anche tra qualche suo collega, alcune forzature, per così dire, istituzionali fatte dal Presidente della Repubblica in merito al suo ruolo. Lei pensa che siano state obbligate dai fatti politici che poco fa riferiva, o c'erano altre vie? No, ho l'impressione che non c'erano altre vie, e devo anche aggiungere che di solito nessuno di noi è costretto a scegliere tra un bene e un male, ma scegliamo sempre fra due mali e scegliamo il male minore. Credo che ai passaggi più difficili il Napolitano abbia saputo scegliere il male minore, e così facendo ha consentito al sistema di sopravvivere, qualche volta persino di funzionare. I limiti dei poteri presidenziali non li conosciamo, perché la Costituzione da questo punto di vista è, come scrissero i più autorevoli costituzionalisti, un po' ambigua. Napolitano ha comunque operato sempre dentro la Costituzione, sfruttando al massimo i poteri che la Costituzione gli dà, qualche volta in maniera extracostituzionale, cioè andando oltre, però non contro lo spirito della Costituzione. Credo che i critici sbaglino, che la critica sia una critica spesso faziosa, politicamente motivata, e qualche volta, se lei me lo consente, so che me lo consente, anche una critica ignorante. Glielo consento naturalmente, perché ovviamente sono sue opinioni. Allora, professor Pasquino, lei dice sostanzialmente che ha portato, mi sembra di capire, all'estremo i poteri che la Costituzione gli consentiva, pur agendo all'interno di quello spirito. Questo sembra voler dire che nell'identificare la figura che verrà dopo, vuol dire che ci vuole un politico, ci vuole qualcuno che sappia gestire questa cosa, sostanzialmente, se non nello stesso modo, poco ci manca. Io ho grande stima dei direttori d'orchestra, ho grande stima dei banchieri a livello europeo, ho grande stima anche di intellettuali, storici, scrittori e così via, nonché qualche volta, non troppo spesso, persino dei miei colleghi professori. Però credo che la Presidenza della Repubblica sia una carica fortemente politica, comunque che deve avere alle spalle una biografia politica parlamentare di rilievo, e quindi non può essere affidata a chiunque semplicemente perché poi la carica riuscirà a renderle dotti di quello che debbono fare. No, questo non basta, quindi deve esserci un politico autorevole, e quindi quando sento parlare di candidature di democristiani di basso profilo e così via divento immediatamente preoccupato. Capisco che i parlamentari che hanno un profilo bassissimo ritengano un democristiano di basso profilo una personalità, però questo non mi pare che basti né per la Costituzione né soprattutto per il Paese. Quindi ci vuole un politico di alto profilo, dice lei. Certamente. Ma... sì. Certamente. Non vorrei spingerla troppo in là, ma ha in mente due o tre nomi? Guardi, io ho anche in mente i nomi. Cioè, tanto per cominciare, a me spiace moltissimo che Emma Bonino abbia un tumore, e so che è una donna combattiva, ma so che aveva tutte le qualità per essere un buon Presidente della Repubblica, e quindi ritengo che si debba ancora pensare a De Bonino. Sono convinto che Giuliano Amato, e non sono solo io quello convinto, ma lo stesso Presidente Napolitano, che Giuliano Amato ha queste caratteristiche, e credo che ci siano anche un paio di uomini politici che vengono dal PD. E se Renzi ha detto sceglieremo il nostro interno, sarà bene che si ricordi che dentro il PD ci sono almeno due, forse tre, uomini politici in grado di essere degli ottimi presidenti. Due di questi nomi sono già girati, uno so che è impresentabile per Renzi, ma si chiama Massimo D'Alema, e gli altri due sono uno Walter Veltroni e l'altro Piero Fassino. Grazie, la ringrazio, grazie a Gianfranco Pasquino, politologo, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna, ex senatore della Sinistra Indipendente dei Progressisti. Agli ascoltatori che ci scrivono, che hanno un'opinione diversa dal professor Pasquino, non vi preoccupate, considerate che il voto per il Presidente della Repubblica inizierà probabilmente il 29 gennaio, quindi avremo tutto il tempo di sentire opinioni favorevoli e contrarie al appunto a Napolitano e sul prossimo Presidente. Un'ultima notizia prima di andare al traffico, c'è stata un'emergenza questa mattina sulla Stazione Spaziale Internazionale, un aumento di pressione nel circuito di ammoniaca riscontrato nel modulo americano ha costretto l'equipaggio a mettersi al sicuro all'interno del segmento russo della stazione spaziale. Al momento, a quanto pare, però, non ci sarebbero rischi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Fiat Chrysler announcing its best December sales in a decade. Ecco, avete sentito gli ultimi risultati delle vendite auto negli Stati Uniti. Si è chiuso il 2014, devo dire, piuttosto buono, buonissimo forse per la FCA, Fiat Chrysler Automobile, che ha chiuso l'anno con un più 16% di vendite, più 20% soltanto nel mese di dicembre, General Motors più 5%, ma con un più 19% solo per dicembre, la Ford che ha avuto un andamento un po' più problematico per, come dire, alcuni incidenti di percorso su certe catene di produzione, meno 0,5% per l'anno e un leggero aumento per il mese di dicembre. Non vi do questi risultati solo perché in effetti rappresentano il consuntivo reso noto negli ultimi giorni, ma perché si sta per aprire, anzi si è già aperto dietro le quinte, il salone dell'auto di Detroit, con tutte, come dire, le novità in materia di automobili per questo anno 2015. Ma visto che la FCA è andata così bene, voglio farvi ascoltare una pubblicità che, devo dire, mi ha colpito molto, perché uno dei segreti, secondo me, della Chrysler, della Fiat, è stato proprio quello di aver azzeccato delle campagne pubblicitarie molto buone. Partiamo con questa che ha cavalcato alcuni giorni fa i Golden Globe, cioè nel mezzo degli attori, del cinema, delle star, eccetera, eccetera, c'erano delle pubblicità della 500. Ecco, sentiamone una. All good? Good to go. This is trial run number 15A, range and speed of the all-electric Fiat 500e. Avanti. Ecco, questa è tipica, diciamo che in questo caso c'è una donna molto bella che si tira sulla cerniera e parte per fare una prova di una 500 su una pista, dopodiché la macchina sbanda e ci si accorge che è stata, come dire, concupita da un bellissimo uomo che era dentro la macchina. L'immagine di fondo che si dà a questa 500 e che in vari sketch diversi abbiamo visto durante i Golden Globe è quella di un collocamento in un mercato, come dire, raffinato, di lusso, con un certo stile giovane, ed è la chiave con cui FCA, con cui Sergio Marchionne è riuscito su più fronti, secondo me, a sbancare il mercato americano, che poi poggia sul marketing. O con me da Detroit ai microfoni di America 24, Andrea Malani, nostro guru dell'auto. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Allora Andrea, dunque tu sei reduce da una 2 giorni a Detroit, hai visto Marchionne, hai visto i grandi dell'auto americana, intanto condividi un po' questa descrizione che davo in particolare per la 500 che improvvisamente invade gli spazi pubblicitari americani. Sicuramente la 500 ha avuto successo anche grazie alle azzeccate campagne di marketing, campagne necessarie anche per il fatto che la Fiat era assente da molti anni sul mercato americano, e in ogni caso sono riusciti a dare un'immagine, come dicevi, giovane, come del resto è avvenuto in Europa. Sappiamo che il successo della 500 è stato già molto elevato in Europa ed è stato trasferito positivamente qui in America. Ecco, tu parli di marketing tutto ovviamente, Andrea, trovo che un'operazione di grande successo di marketing di Marchionne sia stata quella dell'annuncio dei 1500 assunti a Melfi, 1000 più altre variazioni, vabbè, non entriamo nel dettaglio, cosa che immagino abbia preso in contropiede i sindacati, o che comunque conferma che aveva ragione lui, che le cose vanno fatte per gradi e che se il prodotto c'è e la disponibilità al lavoro pure, beh, le cose magari funzionano, o sbaglio? L'annuncio ha preso sicuramente in contropiede tutti ed è un annuncio positivo, anche perché, diciamolo, dà un segnale positivo su quella che è la domanda del mercato per per i modelli che vengono prodotti a Mayfield. Ricordiamo la 500X, piccolo crossover, e la Jeep Renegade, che stanno per essere messi in vendita in Europa e che arriveranno tra qualche mese anche qua negli Stati Uniti. Ecco Andrea, vorrei farti ascoltare l'intervento di ieri di Elon Musk. Sentiamo. Certainly Norway has a lot of incentives for electric vehicles, which are great. But it's worth noting that, say, Denmark also has very strong incentives for electric vehicles. Ecco, Musk, che è il fondatore di Tesla, l'auto elettrica, grande invenzione, grande visionario questo signor Musk, ma devo chiederti intanto che tipo di intervento ha fatto e in secondo luogo ha senso parlare di auto elettrica quando il prezzo del carburante in America è ormai sotto i $3 al gallone? Attualmente ha fatto un intervento difendendo a spada tratta la sua scelta, confermando l'obiettivo di venderne 500.000 nel 2020, che poi tra 5 anni, tra non molto tempo. Ma devo dire che anche gli altri costruttori cominciano a dargli ragione. Basti pensare che la General Motors, qua a Detroit, al salone, presenta un'auto puramente elettrica che chiama Bolt, come il corridore, che sarà in grado, dice GM, di percorrere fino a 200 miglia senza ricaricarsi. Sappiamo che il problema della ricarica è il più grosso dell'auto elettrica, finora l'autonomia non è molto elevata. GM promette di risolvere questo problema, la sua auto arriverà solo nel 2017 e comunque è chiaro che anche in questo settore, nonostante il petrolio a buon mercato, la sfida è aperta. Ecco Andrea, spieghiamo ai nostri lettori come funziona questa auto elettrica, perché se ne parla, ma se anche se ci fosse come la Bolt un'autonomia di 200 miglia, poi io a un certo punto ho il carburante o comunque la carica che si sta esaurendo. Che faccio? C'è un distributore, mi devo attaccare a una spina di benzina, posso ricaricarla, so che ci vuole molto tempo per ricaricare, ci possono essere delle batterie di scorta. Come funziona l'auto elettrica? Dunque, intanto diciamo che la Tesla vanta fin d'ora un'autonomia di oltre 300 miglia, quindi superiore a quella promessa da GM. Cosa succede? Quando la carica finisce, ovviamente bisogna ricaricarsi, bisogna attaccarsi a una presa. Quello che sta facendo Tesla è interessante, sta cercando di installare sulle autostrade, sostanzialmente sulle principali autostrade, sia in Europa che negli Stati Uniti, pian piano, investendo lei, dei caricatori che sono in grado, degli apparecchiatori di ricarica, che sono in grado di ricaricare la macchina non in parecchie ore, come serviva finora, ma in pochi minuti, in modo che in sostanza uno possa fermarsi e fare il pieno, per così dire, di elettricità in un tempo comparabile a quello del pieno di benzina. Ovviamente il problema è l'entità dell'investimento e quindi il tempo che ci vorrà ad avere un'infrastruttura diffusa sul territorio, e questa è una delle sfide più grandi per l'auto elettrica. E su questo secondo te ci sono stati progressi a Detroit? Cioè questo è l'anno un po' in cui l'auto elettrica comincia a decollare davvero? Diciamo che è un processo molto lento e certo dal punto di vista puramente economico il petrolio a buon mercato non aiuta. I governi però stanno comunque incentivando l'auto elettrica insieme con altre forme di risparmio di energia, perché il problema molto sentito è anche quello del CO2, dell'inquinamento, e quindi in ogni caso quasi tutti i costruttori sono costretti, volenti o nolenti, a investire in queste nuove forme. Quindi sicuramente si andrà verso uno sviluppo di questo tipo, che sia poi l'auto elettrica solo a batterie o un'auto ibrida, quindi con un piccolo motore a scoppio accoppiato a un motore elettrico, lo deciderà il mercato. Ecco Andrea, tu sei a Detroit, hai visto i modelli più belli, le nuove auto, facci sognare, qual è il modello che ti è piaciuto di più? È sempre difficile scegliere, è sicuramente bellissima la Ford GT, l'auto sportiva marca Ford che negli anni 60 vinse Le Mans ed è stata progressivamente aggiornata. Abbiamo dei modelli molto strani come una Mini superleggera, una Spider su telaio Mini. Ce n'è per tutti i gusti, ovviamente ci sono un sacco di quelli che sono i veicoli più diffusi negli Stati Uniti, i grossi pick-up che sono considerati come un veicolo arretrato, grande bevitore di benzina e quindi un po' superato, ma per esempio quest'anno il premio di truck dell'anno è stato vinto dal nuovo pick-up della serie F della Ford, che ha una carrozzeria in alluminio e che quindi è stato progettato secondo i criteri più moderni, poche vetture, poche automobili anche hanno la carrozzeria in alluminio, proprio per risparmiare carburante e quindi adeguarlo alle nuove esigenze, e per questo è stato premiato. Ecco, parlando di Ford c'era anche la Ford Mustang. C'era anche la mitica Ford Mustang, che era in gara per il premio di auto dell'anno, ma che un po' paradossalmente, essendo qua a Detroit, è stata battuta sul filo di lana da un'auto che più europea non si può, cioè la Volkswagen Golf, che ha conquistato il riconoscimento qua, nonostante, e questo è un altro un po' un paradosso, la Volkswagen sia tra i costruttori europei quello che qua in America non sta andando molto bene. Forse questo premio l'aiuterà a risalire la china. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Fratero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di auto, l'auto fa parte integrante, secondo me, del sogno americano. Immaginate queste grandi spianate, queste strade che si perdono all'orizzonte, la radio accesa, massimo volume e via, al volante magari di una coupé come Deuce Coupé dei Beach Boys, una canzone che ha fatto sognare anche lei e che racconta di come si può fare una conquista agevolmente avendo su una bellissima coupé le quattro ruote più veloci in città. The Beach Boys, Little Deuce Coupé. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Ed è tutto per Effetto Giorno e ringraziamenti come sempre Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24, Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. La trasmissione torna domani alle 13, noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.